siamo in missione per conto di Dio. Mattino di Luca Telese. 24 mattino, da sempre la quintessenza di quello che bisogna sapere. Io sono di Ostia, sono cresciuto a Ostia, abbiamo uno scoop, non solo, ma ero compagno di banco di Giuliana Di Pillo. Immagine straordinaria, poetica, pasoliniana. E a me Bebeio piace moltissimo, sembra la testimonial di quella accettazione sempre più importante del fatto che le forme di disabilità non sono altro che forme diverse di abilità. La silhouette scultorea di Oscar Giannino si affaccia fra Roma e Milano. Notizia per te è che ti vedo oggi più bello che mai. Non ci sono magagne dietro, anzi tutt'altro. Buongiorno, buongiorno. Complimenti per la trasmissione. Grazie, soprattutto a Oscar. Gara! Io come coltivo la materia. Se non lo dai a tutti, a chi lo devi dare? Via queste liberalizzazioni. Assumiamo chiunque. La maggior parte sono a tempo indeterminato. La risata di Oscar. Sì, la immagine è anche abbastanza ironica. L'eroico Edoardo Anselmi, che quando è stato aggredito dal gorilla di Roberto Spada. Paga. Come si direbbe a Roma, bisogna dire che hanno magnato. Dai conduttori esistono solo grazie agli ascoltatori. E il popolo di Radio 24 reagisce subito. Lo Stato ci dice: dateci il 10% subito, sostituto d'imposta, e noi alziamo le mani e diciamo: prendilo, non farci del male. Reach out and touch me. Popolo dei Giasvelli, buongiorno. Chiudevamo la settimana scorsa con questa invocazione di Oscar Giannino e apriamo la nuova settimana con gli echi di una scoperta drammatica. Sì, abbiamo pagato troppo di tari. Abbiamo pagato quasi il doppio in tante città italiane e sarà molto difficile rivedere i soldi. Guarda un po'. E poi è stata una settimana di fuoco. Sono emersi i nomi. Fuori nomi. È uscito il nome del Weinstein italiano. Sarà lui? Non sarà lui? I giornali sono pieni di tutto questo. E poi ovviamente ancora bolla in pentola il dibattito sulla sinistra. Oddio mio! E noi dobbiamo cominciare questa giornata. Buongiorno al nostro Virgilio. Buongiorno. Paolo Ruffini. Ci sono. Ti sei svegliato per noi. Grazie. Eroe civile. Regista, comico, drammaturgo, attore teatrale, quante cose sei, Paolo? Conduttore di uno dei più grandi programmi comici della TV italiana. Intanto specifica, visto che insomma siamo in una postazione autorevole, che sono i Ruffini, quello che fa un po' il buffoncello in TV e non l'autorevole direttore di TV 2000 attualmente, ex direttore di Rete 3, perché c'è l'omonimia, sai, no? quando mi invitano in occasioni del genere particolarmente autorevoli, devo sempre specificarlo, no? Ma perché ci sono stati tanti equivoci fra di voi? La percezione mia è quella che quando magari capito scrivo un libro, vado a un incontro oppure mi invitano alla Yulm a parlare TV, si aspettano sempre l'altro, quello serio. Poi arrivo io e ci rimangono malissimo, insomma, sai che è un paese bello questo, perché uno che fa lo scemo pensa davvero che sia scemo, il che per certi aspetti è anche nero, insomma, è plausibile anche che si facciano delle cose di altro spessore. E allora per esempio raccontiamo che stai portando in giro per l'Italia uno spettacolo altissimo in cui reciti con attori down, metti, come dire, in scena la normalità, giusto? Esatto, uno spettacolo che si chiama Un grande abbraccio, che faremo a Milano domani, martedì, e al Teatro della Luna d'Assago, poi lo rifaremo il 27 dicembre al Teatro Medi di Firenze, ci sono delle altre occasioni, anche al Teatro Sistina di Roma il 19 marzo, insomma, lo facciamo un po' random. È uno spettacolo che parla di relazioni umane e di abilità e disabilità. Lavorando con questi ragazzi, con la sindrome di Down, livornesi come me, ma attori a tutti gli effetti, si ragionerà insieme su quella che è la nostra abilità. Ma cosa hai imparato? Perché poi uno dice, sì, però uguali, in realtà sono diversi. Invece cosa hai imparato sul palcoscenico? Ho imparato che c'è una, che il disabile non è quello che non si sente abile a, il disabile è quello che incontra qualcuno per strada che gli dice tu non sei abile a, cioè a tutti gli effetti sono dei ragazzi che si sentono totalmente capaci delle cose di cui siamo capaci noi, e anzi forse sono dei ragazzi che alla vita gli danno del tu molto più di noi, cioè hanno, non so come raccontartela, forse se la sono sudata, se la sono guadagnata, e quindi non hanno più nessuno, una leggerezza, hanno una confidenza con la felicità che forse a me, a te e a tanti altri sfugge, no? E quindi questa sorta di rapporto intimo anche con il sorriso, con la leggerezza e con e col soddisfare dei bisogni molto più semplici rispetto a quelli che hanno ad altri, riescono a essere senza filtri e a scandagliare qualsiasi tipo di giudizio, di pregiudizio, di convenzione sociale. Allora entriamo insieme anche nella comicità, sì. Anche nella comicità. Allora entriamo in Effetto Misto oggi con uno scherzo, lo scherzo a travaglio, meraviglioso, riuscito peraltro, e inizia così la nostra giornata. Fratello non è una trasmissione di artisti, è una trasmissione di sfigati. Se tu pensi che ti abbiano invitato perché sei un artista, ti illudi, ti hanno invitato perché sei figlio mio, ovviamente. Il figlio di Marco Travaglio gli dice che è stato invitato al Grande Fratello VIP. Io vado lì da loro, ma io li schifo, io li sputo in faccia, io non li guardo neanche, io se li incontro per la strada li stiro con la macchina. Sono gentaglia, sono personaggi orrendi. Io sono il diavolo e loro l'acqua santa, o viceversa. Meraviglioso, eh? Stupendo, stupendo, l'ho visto. È stato anche molto spiritoso a dare la liberatoria, però era... Ti rendi conto? Io sono il direttore del Fatto Quotidiano e devo andare lì a parlare di Malgioglio. Beh, fantastico. I problemi con i figli adolescenti di Marco Travaglio sono questi, ti rendi conto? Neanche tanto adolescente. Senti invece le cose serie. Pisapia non vuole un'altra Sicilia. Non vogliamo un'altra Sicilia. Dobbiamo trovare gli strumenti, i modi, i contenuti soprattutto, i percorsi. Noi non possiamo condannarci da soli. Mi rivolgo soprattutto al Partito Democratico. L'idea dell'autosufficienza, l'abbiamo sempre detto, sarebbe stato e rischia di essere un suicidio politico. E un po' la scena gli ruba la Boldrini, che cambia rotta e dà il segno alla trasmissione dicendo no, non alla trasmissione, alla convention, dicendo no, col PD non bisogna fare un'alleanza. Non era questo l'obiettivo, un'alleanza purché sia. Non ha funzionato. E non basta neanche fare le alleanze contro. E sapete perché? Perché questo non mobilita. Fare l'alleanza contro non serve. E mentre i Rolling Stones ci cullano, gli Stones ci cullano, e Crozza imita Ventura, fantastico. Non è andata bene, no. Diciamo. No, no, andata, avete perso. Comunque noi andiamo in Russia, sì. In Russia ci andiamo. Ah, beh, va bene. Già parlato con un Tavecchio. Bene. Stiamo aspettando la risposta dell'agenzia. Quale agenzia? In che sei cosa di agenzia? Perché sono 4 giorni, 5 notti, facciamo Mosca, San Pietroburgo. Vediamo tutti i musei, purtroppo per la finale credo non ci siano più biglietti, no. Ma un bar dove infilarci, un ristorante con la TV, no. HD lo troviamo sicuro. Ho capito. Ma anche un plasma. Sei un appassionato di calcio? Non lo so, ma sicuramente sai che la nazionale questa sera se la gioca, eh? Vabbè. Divertente l'imitazione di Crozza. E, che cosa pensi sia diventato Crozza? Proprio detto da un comico, perché ormai è un maître à penser, un polemista. No, però è anche l'ultimo che fa davvero un certo tipo di satira, no? Mentre sta sparendo tutto e mentre la politica è sempre più frastagliata, lui è lì che continua a darsi dentro, a prendere un po', a sfottere, a prendere in giro davvero certi... stigmatizzare certi comportamenti politici, ma anche culturali, sociali. Io credo che sia proprio ganso. È proprio, sai, una... No, ma è vero, è una cosa che... un appuntamento che tu vedi, guardi, e che anche prendere delle cose piccole, riesce anche delle cose di nicchia a fatele diventare pop. Questo è un grande pregio. E più nella nicchia di Sandro Pocheschi, tecnico romano della Ternana, che ha lanciato i suoi strali contro Ventura, contro la Nazionale, senti. Oltre che una squadra dei profughi, ci siamo fatti anche menà e ora stiamo urando a casa. Una volta l'Italia menava e vinceva, adesso c'è meno e piagniamo. Ha portato tutti gli stranieri in Italia, è successo questo, che non c'è più un italiano che mena. Andiamo in Svezia e ci menano, siamo diventati tutti pariolini. Il calcio italiano è finito, pariolini, usciamo anche da sto mondiale. Rischia il deferimento, ma ha ragione, siamo diventati tutti pariolini. Forse vale anche fuori dal calcio. Che dici, Paolo? Ma siamo diventati tutti un po' bacchettoni, guarda, io lo vedevo tanto, anche perché ora per esempio per ricominciare a Colorado, no, e vediamo che c'è un alto livello di moralismo, io a volte invidio un pochino la televisione degli anni Ottanta, era più scatenata, più scollacciata, più boccaccesca, cioè ci si diceva di tutto, ora siamo diventati dei perbenisti, talvolta sempre pronti a segnalare ancora chi dice una parolaccia, è una cosa... Ti viene tanta voglia di zanzare a volte. E infatti tu hai dissacrato tantissimo. Ci fermiamo solo un attimo per le strade e poi torniamo a friggere insieme. Facciamo un avvertimento sindacale: è immorale alzarsi a quest'ora. Mattino. I già svegli. Sono Marisa, mi sveglio sempre presto, prima ascoltavo Milan e adesso ascolto Telese. Un po' l'insonnia, poi se aspetto che la trasmissione perché mi piace. Ogni mattina le notizie attese te le spiattella qui Luca Telese. Arriva dopo un po' Oscar Giannino, che è nato come me proprio a Torino. Ciao, ne! Ho cominciato a svegliarmi molto presto per riprendermi quel tempo che la malattia ha rubato a mia madre. E poi è diventata un'abitudine. Cioè, 5:59 non ascolto l'inno di mamma e la mia giornata inizia proprio male. Poi per mezz'ora rimango accucciato ad ascoltare le notizie e alle 6:30 ci sei tu. Luca Telese, una carezza al risveglio. Tu sei la tenerezza che Giuseppe Cruciani non avrà mai. Ti abbraccio fortissimo. La tenerezza che Cruciani non avrà mai. Ma qui mi sfottono anche dalla regia. Bene, bene. E Paolo Ruffini, sei lì. Beh, qui siamo al top, eh. Qui siamo veramente al top. Non contaminare. Invece senti, a proposito di amore e tenerezza, Nina Moric si è innamorata di Casa Pound. Viva Casa Pound, ma quali violenti, ma di cosa state parlando? Tu sei innamorata della politica, innamorata. Io sono innamorata di Casa Pound. Xenofoba? Sono croata? Ma di cosa stiamo parlando? Razzista? Fascismo è morto 70 anni fa, ma di cosa stiamo parlando? Proprio a Daniele Pervincenzi, rilasciava questa dichiarazione. Beh, interessante, delle argomentazioni un po' fumose, ma per il cielo, cioè. Grillo nel 2013 evocava Casa Pound, senti cosa diceva. La responsabilità di fare una squadra di governo e di governare il paese ce la vogliamo prendere noi se c'è convergenza sui temi. Niente poltrone, niente spartizioni. Niente accordi preelettorali o post-elettorali. Lei non sta sentendo Bersani, per esempio? No, ma attualmente siamo passati a Di Maio, noi miriamo ad arrivare al 40%. Se non dovesse essere così, perché gli italiani avranno deciso altro, troveremo sui temi i presupposti per portare quella squadra di governo di fronte al Parlamento dice, e prima al Presidente della Repubblica. Le dice un nome che le piacerebbe nella squadra di governo? Così fanno i titoli tutti. No, i nomi li conosciamo. Nei prossimi mesi. Era Di Maio da Fazio, ma dicevo che quel video su Casa Pound, profetico a questo punto bisogna dire di Grillo, rimbalza nella rete dal lontano 2013. Io, se un ragazzo di Casa Pound volesse entrare nel Movimento 5 Stelle, che ha i requisiti per entrarci, ci entra. Più o meno poi avete delle idee che sono condivisibili, alcune magari meno, alcune di più, però questo è democrazia. Io sto parlando con te, sembri un delegato del Movimento 5 Stelle. Cioè, candidato di Casa Pound d'Italia. Cioè, ma vedi allora. Che dici di questo boom del movimento nato intorno al centro sociale di destra a Roma? Cosa ne pensi? Ma bisogna vedere, è un boom che comunque per ora è sezionato in un'area geografica particolare. Sì, insomma, certo. Bisognerà capire, ogni realtà, io credo che l'Italia sia veramente molto frammentata in questo momento. Ci sono delle realtà che vivono delle situazioni che è difficile anche riuscire a portare sulla scala nazionale. Ho capito, è quasi un auspicio. Asia Argento, lo rivela il padre, Domenica Rin, l'abbiamo vista intervistata dalle Parodi, anzi dalla conduttrice di Domenica Rin, dice a Cristina Parodi, Asia teme per la sua vita. suo Asia nome. Asia non esce più di casa praticamente per paura di questi agenti israeliani. E questa è gente che spara. Gente che non... Cioè Asia teme per la propria vita? Sì, teme per la sua vita, teme per la vita dei suoi figli, teme i ricatti. Sono agenti segreti, sono del Mossad, che poi è uno dei più crudeli servizi segreti del mondo. Asia Argento minacciata dal Mossad su mandato di Weinstein. Ma chi era? Chi era che parlava? Scusami. Era Dario Argento. Dario Argento, papà. Non ci credi? Ma no, è inquietante, veramente. Fa paura davvero. È una delle cose più paurose che abbia mai detto. Spero un cacchio di no, ovviamente, ma questa è una situazione angosciante. Guarda che... Italiano, io te lo dico da dentro, sta vivendo dei momenti bui, ma tanto, sono tutti terrorizzati. Però... Allora, ne parliamo subito perché senti Enrica Bonaccorti sulle molestie. Cosa sentiamo dire noi fin da piccoli? Che cosa sentono i maschietti da piccoli? Chissà quante fidanzatine avrai da grande. Bravo! Invece alle femmine e si insegna la sottomissione, casomai. E brava ce lo dicono soltanto se non ci ribelliamo. Sì, perché questo paese che tanto invoca denunce e nomi, appena una apre bocca la crocifigge. È così? Ma non credo proprio, io non lo so, ma in un paese dove veramente ci sono problemi sulla sanità, sulla scuola, cioè, la macchina del fango funziona benissimo. Io credo che ci siano sempre state delle denunce che non vengono fatte in TV, ma vengono fatte in luoghi appositamente prescelti e che comunque funzionano anche se noi non lo sappiamo. Cioè, credo fondamentalmente che un essere, come dire, contrari anche a un certo tipo di speculazione, di informazione, non significa essere a favore dei molestatori. Cioè è un pochino come se io sono contrario alla pena di morte, ma non vuol dire che sono favorevole a chi ha commesso un reato. Certo. Credo che si debba un po' distinguere, capito? E tu dici garantismo, sicurezza, nomi, cognomi, denunce precise. Senti la bomba delle attrici intervistate, l'avrai sicuramente visto, dalle Iene, che dopo una sorta di telenovela, cioè nel senso di romanzo a puntate, arrivano a rivelare il nome della persona di cui parlavano, il regista romano che le ha tampinate, sarebbe Fausto Brizzi. Ci dici chi è questo regista? Fausto Brizzi. Il regista è Fausto Brizzi. Il regista è Fausto Brizzi. Fausto Brizzi. Il regista di cui parliamo era Fausto Brizzi. Allora, Dino Giarrusso aveva fatto questi servizi, li aveva mandati in onda, mancava solo il nome. È trapelato sul Messaggero e sul Corriere della Sera sabato, in un pezzo della Menafra e in uno della Sarzanini, e poi è uscito fuori anche alle Iene. Che ne pensi? Penso che finché io, a parte da, sono sconvolto e sono molto, molto amico di Fausto, ovviamente non ci sono delle prove concrete, io mi fido molto più di carte della magistratura che poi della TV, di cose riportate attraverso un volto blerato. Quindi io per ora mi alzo e mi astengo insieme al dispiacere. Ripeto, bisogna comunque, credo, distinguere molte cose. Io credo che chi stupra, per esempio, un minore debba avere l'ergastolo, chi molesta debba andare in galera, chi ci prova è assolutamente normale. Nel suo caso evidentemente ci sono cose gravi, e se sono cose gravi acclarate sicuramente dovrà pagare. Da qui in poi inizierà secondo me una gogna mediatica che poi prima o poi si esaurirà, perché è tutto abbastanza ridicolo. Poi, cioè, ho visto accusare chiunque ultimamente, insomma, raccontiamocelo, però c'è anche una damnatio memoria che sta succedendo come in America per Kevin Spacey, che è ridicola. Cioè, io non è che adesso non vedo più American Beauty perché lui ha commesso un reato, non so come dire, anche perché in questo modo... Sì, addirittura cancellato da un film, rigirate delle scene per sostituirlo. Allora, non so, non ascoltiamo più i Doors perché il cantante era un tossicodipendente, speriamo che Galileo non abbia commesso reati, se no la Terra... Torna piatta. È una cosa un po' assurda questa, mi sembra un'ipocrisia... folle, insomma. Detto questo, ovviamente chi ha commesso dei reati nei confronti di donne è giusto che paghi, ma insomma non è una questione che è nemmeno confinata al mondo del cinema o a un'attrice che fa un provino, può essere anche la segretaria che fa un colloquio di lavoro, insomma. Allora, un Ruffini controcorrente, ricordiamolo, a teatro martedì, giusto? Sì, martedì, e sono a Terra della Luna da Sago, a parlare controcorrente in tutto in questo senso. Con un grande abbraccio. Grazie Paolo, grazie, quello buono per noi. E sentite sullo sfondo i Pink Floyd, Embryo, perché sta nascendo una vita nella nostra redazione. Antonella ci ha lasciato per la maternità, speriamo che torni presto, e noi ci vediamo immediatamente dopo il GR. Babbaleo, impara a parlare e impara la grammatica prima di leggere i giornali.